Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo ampiamente dei dati diffusi oggi dall'Istat che vanno a sommarsi a dati che, seppur con diverse indicazioni, con diverse fonti, vanno tutti nella stessa direzione di un leggero, noi siamo sempre molto cauti, di un leggero aumento di miglioramento del clima economico. Oggi l'Istat fotografa un balzo della fiducia dei consumatori a febbraio ai massimi dal 2002. L'indice che misura l'ottimismo sale a 110,9 punti e fa il paio con questo anche l'indice di fiducia delle imprese ai massimi dal 2011, sale a 94,9 punti. Anche qui le spiegazioni sono di un effetto positivo dell'annuncio di Mario Draghi sul quantitative easing. Attenzione, l'anno scorso, o meglio a fine 2013, furono proprio i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese a trarre in inganno tutti gli istituti di previsione, perché stimarono un aumento degli investimenti e degli acquisti che poi non ci fu, perché la fiducia, come spieghiamo molte volte, in quel caso l'aumento della fiducia non era un aumento della fiducia dovuto al fatto che si immaginasse un miglioramento del clima economico, ma banalmente o semplicemente un non peggioramento del clima economico. Beh, c'è una bella differenza tra aspettarsi una situazione economica migliore o essere fiduciosi che la situazione economica non peggiorerà ulteriormente. E la differenza si chiama appunto espansione del ciclo economico oppure contrazione o stagnazione, per meglio dire, del ciclo economico. Un'altra buona notizia su questo riguarda il nuovo record di brevetti, perché per la prima volta dal 2010 si registra un aumento in Italia del numero di domande di registrazione all'Ufficio Europeo dei Brevetti, l'EPO, più 3% in Italia, per la prima volta dal 2010. Noi siamo comunque in fondo alla classifica, cioè abbiamo solo il 2% delle richieste totali. Siamo sesti per brevetti concessi, ma in questo caso con un calo del 3,3%. E di questo parleremo anche delle quote latte. Torniamo su un tema che ciclicamente era un po' di anni che non ce ne occupavamo. Perché? Perché la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato recupero di 1 miliardo e 750 milioni che avrebbe dovuto l'Italia prelevare dai nostri agricoltori, o dai nostri agricoltori, dai produttori di latte che hanno prodotto in eccesso violando i tetti stabiliti da Bruxelles tra il 95 e il 2009. È un'infrazione, voi direte perché? Perché se lo Stato non le chiede indietro, di fatto è come se fosse un aiuto dello Stato e un vantaggio dello Stato a chi non ha rispettato le quote di produzione, e quindi la Commissione europea ci ha deferito a chiaramente la Corte di giustizia, una battaglia che va avanti da 20 anni quasi, perché ha subito moltissimi passaggi. Ricorderete, ce ne siamo occupati molte volte, c'è questo 1,750 miliardi di euro di multe che lo Stato italiano non ha mai chiesto ai produttori che non hanno rispettato le quote latte. Sarà l'occasione per parlare anche del super piano Made in Italy lanciato oggi dal governo. In realtà ce l'aveva già anticipato il vice ministro Calenda, ma oggi è arrivata la firma del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Praticamente 260 milioni di euro stanziati per favorire il nostro export, l'export del Made in Italy, quindi incrementare il volume dell'export, portandolo in un aumento, quindi aumentandolo di circa 50 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. Un obiettivo, secondo i ministri coinvolti, cioè il ministro Guidi, ma anche il ministro alle politiche agricole Martina e il ministro delle infrastrutture Lupi, all'economia Padoan, dicevo un obiettivo che secondo il governo è raggiungibile accrescendo il numero di imprese esportatrici e trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in realmente esportatrici. Tra l'altro la Cassa Depositi e Prestiti ha rafforzato il suo impegno a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti infatti ha approvato l'aumento delle risorse dedicate al settore, portandole dai 6 miliardi e mezzo attuali a 15 miliardi scusatemi, di euro. Di questo parleremo anche perché nel frattempo si inizia a fare i primi ragionamenti su quello che sarà il grande evento che dovrebbe dare un ulteriore rilancio all'economia italiana. Poi vedremo il condizionale d'obbligo, e mi riferisco all'Expo. Oggi i vari soggetti hanno fatto il punto anche su quello che sarà l'accoglienza alberghiera, e devo dire, da questo punto di vista, nel passato i casi non sono tutti così virtuosi, anzi, aumento delle tariffe alberghiere nei periodi, mi riferisco in questo caso alla città di Milano, nei periodi del Salone della Moda, del Salone del Mobile, scusatemi, della Settimana della Moda e di eventi fieristici particolari, un andamento che vediamo anche in altre città quando ci sono eventi fieristici di rilievo. Uno può obiettare, sì, ma in quel caso l'evento dura 5 giorni, ma al massimo una settimana. È vero, però è un'abitudine che vorremmo non rivedere nel caso dell'Expo, perché è chiaro che se si utilizza l'Expo per fare cassa brutalmente, poi l'effetto boomerang è dietro l'angolo. Ancora, per quello che riguarda le notizie di mercato, ieri in serata alle 20 è arrivata la notizia che il Tesoro avrebbe collocato in tempi rapidissimi, e infatti lo ha già fatto oggi, una quota del gruppo Enel ancora in suo possesso. Il titolo in questo momento, per quello che riguarda la borsa, dico in generale che l'aumento dell'1% a Milano, come a Francoforte, dello 0,50% a Parigi, ed è invariata Londra, l'America pure è invariata, con un euro in leggero indebolimento a quota 1,12. Ma dicevamo dei titoli. Il Tesoro ha ceduto 540 milioni di azioni ordinarie Enel, che sono circa il 5,7% del capitale. In questo modo la partecipazione dello Stato attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in Enel è scesa dal 31,2% al 25,5% del capitale. Operazione flash, ricordavo, gestita dalle quattro banche advisor, quindi Goldman Sachs, Bank of America, Mediobanca e UniCredit. Il prezzo non poteva essere inferiore ai 4 euro per titolo. Il corrispettivo, cioè quello che lo Stato, o il Ministero del Tesoro, ha incassato è di circa 2 miliardi e 200 milioni di euro. Su questo devo dire che per quello che riguarda il titolo, oggi perde lo 0,80% a 4,04 euro per azione. Il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione invece è Jux, meno 2,20%, i migliori sono Autogrill più 3,70%, Mediolanum più 2,80%, Telecom più 2,80%, Intesa più 2,30%, Pop Milano più 2,20%, mentre prima che me lo chiediate, Mediaset oggi è più calma, più 0,20%. E anche tutto il fronte Raiway è molto molto più calmo dopo il botto ovviamente di ieri. Ma dicevo, un commento all'operazione lanciata dal Tesoro, annunciata ieri in serata. L'operazione era attesa, non erano attesi i tempi né era attesa la velocità con cui si sarebbe realizzata. Un commento, dicevo, la nostra Valeria De Rosa lo ha chiesto all'economista Carlo Scarpa, che da sempre si occupa di temi legati all'energia e alle partecipate energetiche, insegna economia politica all'Università di Brescia. E dicevo, Valeria De Rosa ha chiesto innanzitutto all'economista Carlo Scarpa se vi sia il rischio che vengano meno le partecipazioni in settori strategici, ma se ancora si può parlare di settori strategici in questo paese. Non so che cosa significhi esattamente settore strategico, in realtà è un termine desueto e mai precisato in modo chiaro. Tutto sommato, se ci pensiamo, noi abbiamo le imprese più grandi, più affermate internazionalmente in settori quali elettricità e gas, nei quali in realtà l'Italia non ha nulla di particolarmente forte in sé, nel senso che non abbiamo grandi risorse naturali, eppure abbiamo due grandi imprese che sono cresciute proprio in questi settori. Probabilmente il settore più delicato di tutti, prima ancora dell'elettricità, è il settore del gas. Eni probabilmente è l'impresa più delicata a questo riguardo, proprio perché è in mezzo alla politica estera, in mezzo ai problemi dell'Ucraina piuttosto che non del Nord Africa. Secondo me quella sarà l'ultima che possa essere ceduta. Allora, per quello che riguarda i commenti che stanno arrivando, dove vanno i soldi di Enel in vitalizi? Sapete cosa ne pensa questo programma di vitalizi? Stiamo anche riorganizzando la rubrica sulle inefficienze, gli sprechi della pubblica amministrazione degli enti locali, un'evoluzione 2.0, perché ormai è 2 anni che la facciamo, qualcosa si è mosso ma ancora molto poco. Ma dicevo, dove vanno i soldi dell'Enel? Sono presenti anche nella legge di stabilità, perché il governo, nel enunciare, quando ha presentato la legge di stabilità, quella che ieri Bruxelles ha approvato, nell'enunciare i ricavi e le risorse, ha messo anche le privatizzazioni. Su Raiway, dicevo, oggi nessuna grossa novità, c'è però, dovrebbe essere quasi iniziato il consiglio di amministrazione straordinario di Raiway per discutere l'OPA lanciata da Mediaset attraverso A-Towers. Appunto alle 17 era previsto il consiglio straordinario, mentre nel frattempo il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, ha annunciato via libera del consiglio di amministrazione RAI al piano, quello di ridefinizione della struttura anche giornalistica, dell'accorpamento redazione del TG1 col TG2 e RAI, redazione del TG3 con Rai News. A 3 anni dall'implementazione, dall'attivazione del piano, ha aggiunto Gubitosi, l'azienda stima di poter risparmiare 70 milioni di euro l'anno. Su Raiway però è intervenuto molto brevemente anche il Premier Matteo Renzi, specificando, precisando, ricordando quanto abbiamo detto ampiamente ieri, ossia c'è un tetto della quota che può essere ceduta dalla RAI di Raiway, la RAI non può scendere sotto il 51%, ha detto Renzi, abbiamo messo delle regole e non le modifichiamo. Mediaset e il mercato, credo che dovrete abituarvi a considerare le operazioni di mercato per quelle che sono, non operazioni politiche ma operazioni di mercato. Per questo, perché il mercato sia rispettato, occorre la libertà di chi sta sul mercato e il rispetto delle regole. Il governo ha messo delle regole su Raiway che non intende modificare, e sono le regole che riguardano il 51%. Punto, per me la discussione è finita qui. E a questo proposito, non su Raiway e su Mediaset, ma sulla quotazione delle torri telecom, che chiaramente sono sempre torri di trasmissione, ma per la telefonia e le telecomunicazioni, oggi l'amministratore delegato di Banca IMI, Gaetano Miciche, ha chiarito che la quotazione delle torri telecom è prevista per il primo semestre di quest'anno, e l'offerta lanciata da A-Towers, da Mediaset per Raiway, non andrà a modificare la volontà di Telecom Italia. Allora, i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio Dimensione Suono, oggi sono dedicati alla notizia di cui parleremo anche tra pochi minuti, mi riferisco alla fiducia di consumatori e imprese. Il commento dei 100 secondi del 24 Sole 24 Ore oggi è, come sempre, affidato a un vice direttore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La fiducia dei consumatori è ai massimi dal 2002, quella delle imprese segna un'impennata che non ha uguali da 4 anni. I dati ISTAT di febbraio volgono davvero al bello, ma siamo alla svolta? Il quadro generale farebbe pensare di sì, ora si tratta di capire quanto questa presunta inversione di rotta sia veloce e ampia. Il contesto del resto è in fase di rapido mutamento, l'Europa ha promosso la legge di stabilità italiana e ha concesso una deroga biennale anche al vero malato d'Europa, che è la Francia. La Grecia è in fase di soluzione, anche se con modalità ancora da specificare. Si coglie in generale un cambio di atteggiamento che ha fatto dimenticare l'Europa talebana dell'austerità, contro ogni razionalità e contro ogni idea di crescita e di prosperità economica. La Germania, censurata dall'Europa per la scarsità di investimenti e per l'eccesso di surplus tra export e import, prima o poi darà ossigeno agli investimenti, lo dovrà fare. E per questa via ripartiranno anche le importazioni dai paesi partner. Per l'Italia significa un'ampia gamma di subforniture di qualità in diversi settori, dal meccanico al farmaceutico, dall'elettronica alla chimica. L'Italia del resto sta ripartendo, il dato di fiducia delle imprese, se scomposto nei diversi settori, segnala grande euforia tra quelle di servizio e tra le banche, merito del resto anche dell'annuncio della BCE sull'inondazione imminente di liquidità a basso costo. Il settore che patisce invece il ritardo nella ripresa è l'edilizia, e del resto ha pagato più di tutti e molto pesantemente la strage della recessione. La manifattura in generale invece vede rosa e confida in un futuro più prospero. Anche sul fronte del celebre spread ormai l'Italia vede quota a 100, i rendimenti dei titoli pubblici sono ai minimi di sempre, con un indubbio vantaggio per le casse dello Stato che paga meno di interessi sul debito. Insomma, sembra proprio una di quelle fasi di snodo strategico. Torna in mente Machiavelli, la fortuna offre l'occasione, ma è la virtù che la sfrutta. Ecco, la fortuna c'è, non sprechiamola. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, ho un déjà vu, alle volte ritornano. Parliamo per l'ennesima volta in 15 anni di Radio 24 delle quote latte, perché la notizia c'è, ossia è una notizia non bella. Come ricordavo, la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia per il mancato recupero da parte dello Stato italiano di 1.750 milioni dovuti dai produttori di latte che hanno sforato le quote tra il 1995 e il 2009. Qual è l'accusa? Che se tu non recuperi questi soldi dagli allevatori irregolari, sono aiuti di Stato di fatto e non si possono fare in Europa. Allora, la vicenda delle quote latte nasce nel 1984 alla faccia di Orwell. L'allora ministro per l'agricoltura Filippo Maria Pandolfi negozia con l'Unione Europea una quota di produzione molto bassa, lì fu lo scambio con le quote acciaio, non possiamo ripercorrere la storia, ma la quota era anche bassa perché metà del latte italiano allora prodotto era in nero e quindi non risultava nei dati ufficiali. Nel 92 l'Unione Europea avvia il contenzioso con l'Italia e ci dà sanzioni in primo giro per 6.000 miliardi di lire, 3 miliardi di euro di allora però. Poi c'è un accordo nel 94 e l'Italia paga una prima parte. Nel 96 arrivano le prime multe ai produttori, la prima protesta, gli agricoltori splafonatori che bloccano l'aeroporto di Linate. Nel 99 l'Italia ottiene un 5% di produzione aggiuntiva. Nel 2001 le multe accumulate dal 95 ammontano a quasi 1 miliardo di euro. Nel 2003 c'è una prima sanatoria dell'allora ministro Alemanno che permette di rateizzare, di pagare a rate in 14 anni a interessi zero, quindi abbastanza conveniente, le sanzioni. Ma non basta, perché nel 2008, mentre l'allora ministro Zaia strappa un aumento delle quote del 5%, che a questo punto sono abbastanza vicine con la produzione reale, un anno dopo c'è una nuova rateizzazione da 10 a 30 anni per pagare queste multe a seconda dell'importo, la vara sempre il ministro Zaia, e dovrebbe estinguere 1.700 milioni di euro che i produttori devono ancora allo Stato, quello su cui oggi si concentra Bruxelles. Nel 2010 però per la prima volta rispettiamo le quote, ma c'è un'altra proroga per gli irriducibili, nonostante l'allora ministro Galan fosse contrario. La scadenza viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre 2010. L'ottobre 2010, abbiamo quasi finito, la Commissione Europea ci riprende di nuovo, vuole avere chiarimenti, gli rimandiamo in ritardo con documenti molto lunghi. Si arriva al 10 febbraio 2012, quando la Commissione Europea apre una procedura di indagine nei nostri confronti, perché dice: attenzione, la proroga che avete fatto di 1.7 miliardi è di fatto un aiuto di Stato. L'Italia risponde dà una spiegazione sostanzialmente, dà alcune informazioni sulla procedura di indagine che però non si placa e si arriva al deferimento alla Corte di Giustizia, che è notizia di oggi. Ho citato quattro ministri, mi sembra, l'agricoltura. Sì, quattro, perché Pandolfi, Alemanno, Galan e Zaia fanno quattro, e adesso il nostro ospite è il quinto, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Buonasera ministro. Buonasera. È la serie cronologica, Non lo so. Allora, prima domanda ovvia, anche cosa farete a questo punto, perché la storia va avanti dal 92, insomma anni, sì, in cui manca 1,7 miliardi. Adesso la Commissione Europea ci deferisce la Corte di Giustizia, dice che con queste proroghe e con questa dilazione del tempo noi abbiamo di fatto dato 1,7 miliardi, che non è poca cosa, di aiuti di Stato ad agricoltori, lo voglio specificare, tanto so poi che arriveranno gli insulti, che hanno operato nell'illegalità, perché ci sono migliaia di altri agricoltori che queste quote le hanno rispettate. Fossero tutti, potremmo parlare di un'emergenza del settore, ma c'è chi ha comprato le quote, perché le quote si possono anche comprare, quindi ha speso dei soldi, oppure semplicemente è rimasto all'interno delle sue quote di pertinenza nella legalità e rischia di essere cornuto e mazziato. Allora, cosa farete adesso? Infatti io vorrei partire da qui, ecco, ho fatto bene a chiarire questo punto. Noi abbiamo di fronte una vicenda che riguarda un migliaio di allevatori su 35.000 allevatori in questo paese. La stragrande maggioranza delle persone che ogni giorno vanno nelle nostre stalle e hanno le nostre imprese agricole ha rispettato le quote, ha fatto una fatica incredibile in questi anni, o perché le ha acquistate o perché è stato dentro i livelli che aveva e quindi ha rispettato le quote. Ed è prima di tutto verso di loro che noi dobbiamo compiere un ultimo definitivo atto di serietà, perché questa è gente che si è fatto un mazzo tanto negli anni e non è ammissibile che un migliaio di allevatori che non hanno rispettato le regole oggi complichi la vita a loro e a noi. Noi stiamo parlando di 4,5 miliardi di multe nel complesso di questi anni che lo Stato italiano, come lei ha ricordato, ha già pagato alla Commissione Europea. Ogni cittadino, ognuno di noi ha già dato la sua quota per questa vicenda. Cosa faremo noi? Intanto le dico cosa abbiamo fatto in 10 mesi. Per la prima volta abbiamo messo in chiaro con la legge di stabilità ultima chi deve operare su questo nodo delicato. Abbiamo chiarito che la responsabilità nell'esercizio di questa attività sta in capo ad AGEA. La seconda cosa, abbiamo stampato le cartelle, io so che è doloroso ma è necessario, perché se si rispettano le regole bisogna essere coerenti fino in fondo. Abbiamo predisposto le cartelle per questi 1,000+ produttori e nelle prossime giornate, nelle prossime settimane queste cartelle partiranno. Questo è l'unico vero atto che noi dobbiamo compiere per chiudere questa vicenda, che mi faccia dire ha pesanti responsabilità politiche, perché non tutti i ministri si sono comportati allo stesso modo su questa storia. E le speculazioni, ce l'ha con la Lega? Assolutamente sì. Le speculazioni politiche ed elettorali degli anni passati su questo nodo sono state macroscopiche. Io ho detto in una battuta: faccia il piacere Salvini di scriversi sulla tuta, sulla felpa, scusateci, perché facevano loro i presidi quando erano al governo, spiegando a questi allevatori, non a quegli onesti, che era tutto a posto, che non bisognava preoccuparsi, che avrebbero risolto. Adesso siamo ancora qui a grattarci un problema clamoroso. Il fatto che lo si faccia in un frangente così delicato per il settore lattiero-caseario, la fine delle quote a fine marzo, è comunque un settore che è in grandissimo movimento e anche in difficoltà per i prezzi, esatto, del latte. Complica la vita a tutti, innanzitutto a quegli allevatori. Allora, quindi, se ho ben capito, voi andrete a riscuotere queste quote, il 1,7 miliardi, perché sì. Devo rispondere a alcuni messaggi. Sì, lo sappiamo che era la responsabilità della Lega. Guardate che abbiamo fatto decine di puntate sulle quote latte, ne parlammo con l'allora ministro Zaia. Abbiamo anche ricordato, visto che molti scrivono, che c'erano alcuni di questi allevatori splafonatori che avevano rapporti con la Lega, i giornali scrissero addirittura di rapporti con la vicenda della banca della Lega, Credi, Euronord, e perché alcuni di questi, era un senatore, purtroppo non ho il nome, ma l'abbiamo anche invitato, non ho il nome sotto mano, ragazzi, sono passati un po' di anni, la memoria vale per tutti. Detto questo, restiamo sul presente. Alcuni scrivono: dica che gli splafonatori sono tutti elevatori del nord Italia. Sì, attenzione, la stragrande la stragrande maggioranza degli elevatori si concentrano nel nord Italia, però io sono d'accordo, per non fare tutto un ebbe un fascio, ricordiamo che si tratta di 1000 soggetti a fronte di più di 30.000 allevatori produttori di latte, perché ragazzi non scherziamo su questo, che hanno pagato le quote o hanno comprato, perché si possono anche comprare le quote in più. Quando partirà la riscossione, Ministro, nei vostri piani? Marzo. Il mese cruciale è marzo, guardi, molto concretamente, non c'è altra via. Io ho una parola sola e su questo lo dico da lombardo, so benissimo qual è la situazione, in particolare del settore lattiero-caseario. Io lo devo innanzitutto ai tantissimi allevatori che si sono indebitati per comprare le quote, che si sono indebitati, hanno fatto sacrifici enormi per stare nelle regole. E non è più rinviabile questa storia. Sì, su questo voglio essere molto chiaro. Noi da sempre difendiamo gli agricoltori e gli allevatori, non me ne frega nulla che cosa votino, del nord, del centro, del sud, che rispettano la legge. Il fatto che qualcuno mi scriva: ma sì, dai, se salta il settore lattiero casero chi se ne frega, berremo il latte tedesco. No, guardi, no, che è l'esatto opposto. Cioè qui si sta cercando di non dare un vantaggio enorme a allevatori che non hanno rispettato la legge, non di punire i 34.000 che sono assolutamente legali. Poi il tema dei prezzi del latte è tutto un altro tema. E Ministro, resti con noi però ancora qualche minuto, perché lei oggi queste frasi le ha dette durante la presentazione del Vinitaly. Ma al di là del Vinitaly, qui c'è un super piano che lei stesso era al tavolo della firma del super piano sull'export. Vorrei capire che cosa riguarderà soprattutto nel settore alimentare, quindi agroalimentare. E poi anche una prima anticipazione sull'Expo, visto che poi lei è il ministro a cui fa capo l'intera manifestazione come dicastero. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, nostro ospite in questo momento il ministro alle politiche agricole Maurizio Martina. Sulle quote latte ha chiarito: a marzo, capito bene ministro, partono le cartelle, arriveranno le cartelle per i 1000 su 35.000 allevatori, splafonatori, visto che oggi la Commissione Europea ci ha deferito la Corte di Giustizia per un miliardo e 700 milioni di euro che ancora non abbiamo riscosso. A marzo quindi, giusto ministro? Confermo. Allora, altro tema, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento, perché poi vorrei parlare anche della fiducia e l'export, il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, oggi il ministro Guidi, ma avete fatto parte, diciamo, il ministro Guidi è alla guida della cabina di regia, ma ne fate parte lei, il ministro degli esteri Gentiloni, all'economia Padoan, all'infrastruttura Lupi, e via così, il via libera ai 260 milioni di euro per portare l'export in 3 anni ad aumentare di 50 miliardi, ma come? Beh, intanto per la prima volta c'è un piano organico, diverse misure integrate, ministeri che uniscono le forze, risorse importanti, perché quei 260 milioni sono esattamente 6 volte tanto gli investimenti compiuti in questi anni sull'internazionalizzazione di alcune filiere. Ci sono degli strumenti e soprattutto dei mercati che andremo a mirare puntualmente. Il 2015 ad esempio sarà l'anno degli Stati Uniti d'America, del Canada per quel che ci riguarda. Sul fronte agroalimentare fatemi dire che siamo consapevoli intanto della forza clamorosa che abbiamo. L'anno 2014 è stato un anno molto complicato, basti pensare al blocco dell'import russo. Eppure in un anno complicato abbiamo fatto 34,3 miliardi di euro di export agroalimentare. Negli ultimi 10 anni l'Italia ha fatto più 70% di export agroalimentare, quindi come dire, una dinamica assolutamente preziosa e interessante. Puntiamo ad alcuni strumenti fondamentali in questi mercati che dicevo, innanzitutto Stati Uniti e Canada per il 2015, ma non solo. C'è un piano molto più dettagliato che si potrà vedere anche nei prossimi giorni. Per quel che riguarda noi abbiamo messo a fuoco con il MISE intanto un'azione specifica di contrasto al cosiddetto Italian Sounding, in particolare con un'operazione di accompagnamento delle nostre imprese, sul fronte legale non solo. Poi stiamo lavorando al segno unico distintivo per dare coordinamento comunicativo all'esperienza agroalimentare italiana che spesso è troppo frammentata. E poi la vera questione, è uno delle, diciamo, una delle leve fondamentali per noi su cui lavorare è l'aggancio alle catene distributive, alle reti distributive di questi mercati. Qui il tema delle piattaforme logistico-distributive è il primo vero tema su cui ci stiamo concentrando. Su questo vorrei sentire anche il Presidente del Federalimentare, però una cosa, l'Italian Sounding non è la falsificazione di prodotto, è tutto quello che sembra italiano, ma in realtà con la bandiera italiana, col nome simile italiano, ma in realtà viene prodotto in Canada, negli Stati Uniti o in altri paesi, o in Brasile, ne abbiamo una lista lunghissima. Vale 60 miliardi di euro, ossia il doppio di tutto quello che noi in un anno riusciamo a esportare di agroalimentare, per dare le proporzioni. Però, mi scusi Ministro, c'è una trattativa in corso con gli Stati Uniti proprio su questo. Ora c'è chi dice che continuare a puntare sulla DOP, cioè sul fatto che ti puoi chiamare salame o parmigiano reggiano solo anche negli Stati Uniti, nessuno può usare un nome simile perché c'è la tutela della DOP, non passerà mai in America, negli Stati Uniti mi scusi, perché anche lì hanno le lobby di produttori locali. Meglio sarebbe puntare a un riconoscimento della filiera, cioè che quando io compro il prodotto italiano, che comunque è più caro perché se è di qualità è più caro, ma non solo, ci sono anche prodotti che vanno in fasce medie, io posso vedere la tracciabilità del prodotto stesso, e forse quello potrebbe essere, potrebbe passare di più nella trattativa con gli Stati Uniti. Ma io penso che il confronto con gli Stati Uniti sia un'occasione, chiarisco questo, penso che basta vedere il potenziale di quel mercato per capire che l'agroalimentare italiano lì ha da fare dei giganteschi passi in avanti. Continuo a pensare che il riconoscimento pieno delle nostre DOP e delle nostre IGP sia una chiave fondamentale. Il fatto che il Canada, ad esempio, abbia aperto già concretamente alcuni spazi di novità è utile. Dopodiché so che è un confronto tosto su cui dobbiamo ancora lavorare parecchio. Rimango affezionato all'idea che noi dobbiamo innanzitutto costruire un punto di novità nel riconoscimento delle IG, delle indicazioni geografiche. Poi possiamo anche discutere di come si fa un'operazione di filiera precisa, integrata, e di come questa informazione diventa un valore in quei mercati. Ma non rinuncerei mai ad una difesa consapevole e attiva delle nostre esperienze IG e DOP, perché poi quelle sono le chiavi che aprono dalle porte, e lo abbiamo visto in alcuni mercati. Spesso quando tu fai un lavoro fatto bene sulle DOP, non lo stai facendo solo per quella DOP, lo fai anche perché poi apri degli spazi e delle opportunità per intere esperienze. Dopodiché sono d'accordo con lei sul fatto che ciascun mercato, ciascun paese ha le sue specificità, e quindi ad esempio questa questione di come noi tuteliamo e promuoviamo le DOP e le IGP va costruita mercato per mercato, non c'è una soluzione per tutto, così come un conto è discutere di Europa, un conto è discutere di resto del mondo. Allora, Presidente Scodamaglia, vi aspettate un input, una reazione forte da questo piano per il Made in Italy, o state a vedere e siete prudenti? No, il piano è assolutamente fondamentale ed è importante, soprattutto è importante che si sia raggiunto un coordinamento tra amministrazione e anche parte privata, Confindustria, no, Federalimentare, che non c'è mai stato prima, quindi sicuramente le aspettative ci sono. Lo spazio è enorme, perché quei numeri che ricordava il Ministro di crescita dell'Expo non ci soddisfano minimamente. Facciamo 27 miliardi, ne potremmo davvero fare 50, non possiamo essere secondi a Germania e Francia, non possiamo accettare che negli Stati Uniti su 24 miliardi di fatturato di prodotto alimentare che evoca l'italianità, solo 4 miliardi siano realmente italiani. Quindi lo spazio per crescere c'è ed è enorme. La promozione, le risorse sono importanti, ma è molto più importante agire insieme per superare le barriere non tariffarie, perché tanto è inutile che diciamo che il Real Italian è il prosciutto di Parma vero, se poi il prosciutto di Parma lì non ci va perché ci bloccano tutte le partite con delle motivazioni strumentali. l'isteria, non l'isteria. Quindi attenzione, lavoriamo bene sulle barriere non tariffarie che sono fondamentali, e poi spetta a noi avere capacità distributiva, perché se facciamo una campagna contro l'Italian Sounding e gli spieghiamo che devono cercare il Real Italian e le catene, non solo quelle di New York ma anche quelle del Texas, vogliono finalmente il prodotto italiano, bisogna che glielo diamo non solo perché è buono ma perché sappiamo distribuirlo con una logistica locale e una capacità organizzativa che oggi non abbiamo. Allora, io so che il ministro Martina ci deve lasciare, che ha degli impegni istituzionali, mi dica solo una cosa, poi avremo ampio viaggio di avvicinamento sull'Expo. Ma lei è il ministro di competenza, che cosa vi attendete alla luce di tutto quanto abbiamo appena raccontato dall'Expo? Perché i segnali che arrivano sono, anche qui lo so che adesso mi insulterete alcuni ascoltatori, ma sono di un cautissimo ottimismo. Andiamo a vedere i biglietti già prenotati, sono 7,7 milioni. Io penso che qualunque italiano del nord, del centro, del sud dovrebbe tifare per la riuscita dell'Expo, a prescindere. Però, ministro. No, ma infatti io voglio dire a tutti, credeteci, crediamoci. Al di là dell'atto di fede, però, insomma, ma no, ma non è un parla con fede, un laico. Capisco, io dico che siamo pronti, stiamo lavorando, fino al primo maggio si correrà, ma vedrete che sarà una grande occasione, e me lo dicono anche i numeri, non solo i biglietti. Le 5.000 imprese che hanno lavorato fino a qui ad Expo sono un fatto o no? Dico di sì. Il miliardo di investimenti dei paesi stranieri che si sono mobilitati grazie ad Expo sono un fatto o sono parole? Sono un fatto. I 350 milioni delle imprese private che si sono mobilitate su questa occasione sono un altro fatto. E sono un altro fatto anche i programmi, ad esempio, di incontro, di B2B, di incrocio, interazione tra i nostri e le nostre esperienze agroalimentari. Adesso c'è il presidente Scordamaglia che lo può raccontare meglio di me, e altri buyer, proprio grazie all'occasione del semestre e proprio a partire dall'agroalimentare. Io vedo allora, solo opportunità. Scusi se la interrompo, nel salutarla ci sta mi segnalando la regia che vorrebbe, io so che lei deve andare, vorrebbe intervenire il governatore del Veneto Luca Zaia, ex ministro, che è stato, visto che me lo scrivono gli ascoltatori, siete sdraiati su Zaia. No, guardate, non capite che noi ci occupiamo di notizie, quindi giustamente se c'è uno scontro nella Lega tra Zaia e Tosi con Salvini in mezzo, noi ospitiamo da giorni, lo ha fatto anche Giovanni Minoli l'altro ieri, il governatore del ragionamento Luca Zaia, è stato ospite anche il segretario della Lega Salvini, è stato ospite anche di altri programmi, della Zanzara il sindaco di Verona Tosi. Si chiamano notizie, non è che siamo sdraiati sulla Lega, a parte che me ne frega nulla, ma si chiamano notizie. Detto ciò, io so che le deve andare, ma lo facciamo un confronto con Zaia domani, dopodomani, domani o lunedì? Volentieri, se si può ragionare, volentieri. Questo non deve. Allora, adesso faccio sapere anche al governatore Zaia che c'è disponibilità per un incontro, immagino sulle quote latte, perché questo è un tema che sta molto a cuore alla Lega. Ringrazio il ministro Martina. Traffico, poi chiudo con Federalimentare, poi arriviamo alla borsa che ha chiuso in rialzo dell'1,04%. Allora, presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, a parte quelle dichiarazioni del ministro, l'importanza dell'Expo e il fatto concreto che comunque ci sono più soldi per un piano organico del Made In, siete più fiduciosi su, diciamo, quello che potrebbe essere un incremento dell'export, o ritenete, così mi collego anche alla notizia di apertura, l'aumento della fiducia dei consumatori che è ai massimi dal 2002? Ragazzi, lo dico a chi scrive, se sono cattive notizie dite che siamo solo le cattive notizie, se c'è una buona notizia dite che siamo degli oracoli. È l'Istat che ogni mese fotografa da anni l'indice di fiducia, ha preso i punti dell'indice di questo del mese di febbraio, è a 111 punti ed è il livello più alto dal 2002. Ambasciatore o conduttore non porta pena, comunque la pensiate. Certo. Presidente. Ma le due componenti sono entrambe essenziali. Per quanto riguarda l'export, l'occasione è lì e la domanda di food and beverage italiano è lì, sta solo a noi saperla cogliere attraverso quegli strumenti che dicevamo prima. Per quanto riguarda i consumi interni non si può certo prescindere, non si può vivere solo di Expo, facciamo 132 miliardi di euro di fatturato, l'export ne vale 27, quindi se il consumatore italiano non riacquista la fiducia perché ha passato gli ultimi 6 anni con un crollo dei consumi alimentari che non c'erano mai stati. Gennaio è andato male, molto male, febbraio finalmente si comincia ad intravedere un cambio di marcia. È fondamentale però non deprimerlo con delle nuove tasse, con dell'IVA, con delle accise. E poi è fondamentale rilanciare l'occupazione, secondo me anche in questo senso poi i Jobs Act vanno nel senso giusto. Ecco, vi attendete, c'è qualche segnale di risveglio oppure no? Oppure siete ancora agganciati come altri settori produttivi tutti all'export? No, c'è qualche piccolissimo segnale, dicevo, soprattutto su febbraio che speriamo di consolidare. Qualche piccolo nonostante segnale, la Russia? La Russia è soprattutto legata all'export, ci ha dato un colpo fortissimo e non ci rassegniamo a perdere quel mercato, non ci rassegneremo mai, continueremo a sollecitare il governo perché attivi un tavolo di dialogo bilaterale, perché i russi sembrano disponibili a farlo, quindi piuttosto che fare delle macro e con macro politica che avvantaggi altri economie, dobbiamo riconoscere che noi del mercato russo non ne potremo mai fare a meno. Eh beh, voi come settore agroalimentare, non parliamo poi del nostro tessile abbigliamento, del mobilio arredo, perché esattamente tutte le componenti giustamente lei vede il suo settore, ma non e sul TTPI, la trattativa in corso con gli Stati Uniti invece per quello che riguarda la tutela del nostro made in anche agroalimentare. Lei ha sentito il ministro, io resto dell'idea che forse andare al riconoscimento della DOP, della denominazione di origine protetta, per cui non puoi usare nulla che assomiglia a quel nome, che si chiami prosciutto di Parma, che si chiami parmigiano reggiano, grana padano, io penso persa. Che sia una battaglia persa, conoscendo un pochino gli Stati Uniti non passerà mai, se vogliamo, se fosse una statunitense anche correttamente, i produttori locali si rifiutano di dire no, io non posso mettere un nome che ricordi, tanto non passerà, e le lobby in America funzionano bene, non sarebbe meglio puntare alla tracciabilità, dire guarda questo è un formaggio italiano. No, io te lo dimostro, perché un conto è scrivere formaggio del Milwaukee, prodotto con latte del Milwaukee, e un conto è con latte biologico italiano. Quasi, assolutamente sì, e non inventiamo niente, perché di fatto nell'accordo che abbiamo chiuso con il Canada, un accordo che è stato visto come un compromesso ma è un grande successo, si stabiliscono le regole di coesistenza tra DOP e IGP e denominazioni analoghe che sono già state registrate e sono in uso in quel paese, ma nello stesso tempo, ed è quello che diceva lei che ci interessa di più, si impedisce che ci siano evocazioni di italianità, che si attribuisca cioè un'origine italiana a cose che italiane non sono. La battaglia va fatta tutta lì, bisognerà spiegare che cosa viene prodotto in Italia, che cosa non viene prodotto in Italia, e con delle campagne spiegare il valore aggiunto di quello che viene prodotto in Italia. Per il resto, legalmente su DOP, IGP e marchi registrati ancora prima di DOP e IGP in quei paesi, bisogna trovare un compromesso e non certo andare con la linea dura, non ci riusciremo mai altrimenti. È un mondo difficile e vita intensa. No, mentre l'ascoltavo stavo leggendo chi ci dice che siamo Radio Renzi 24, chi dice che siamo sdraiati su Zaia e la Lega, che ormai sono ospiti sempre, va bene così. Ringrazio il presidente del Federalimentare, evidentemente se becchiamo insulti da destra e da sinistra siamo abbastanza equilibrati. Grazie al presidente del Federalimentare. Grazie, grazie a voi. Allora, sono arrivate decine di messaggi, molti messaggi sul tema delle quote latte. Sì, è indubbio che se gli splafonatori, come risulta a noi, confermato anche dal ministro Martina, sono circa 1 miliardo e la multa di 1,7 miliardi, ora la multa, per cui siamo stati deferiti come paese dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia, riguarda un periodo, voglio ricordare, sostanzialmente dal 95 al 2009, quindi non so se tutti in quale proporzione, però se vogliamo fare una statistica un po' alla Trilussa, il 1,750 miliardi per la precisione, diviso 1000 allevatori, fa chiaramente 1,750 milioni da chiedere a ogni allevatore. Così a naso la vedo dura, anche perché in alcuni casi le stalle non ci sono più, i buoi sono scappati, per usare il vecchio detto. Barisoni, leggimi se ha il coraggio. Lei è il peggiore democristiano cattolico grillino della Lega Nord e Sud, nonché del PD, P2, PDL. Poi sono anche pro Fornero, Monti e Juventino. Sbaglia sull'ultima. Ma tanto sbaglia sull'ultima. La borsa più 1,04%, Milano più 0,58% su Parigi, meno 0,09% in questo momento l'America, e Londra più 0,21%. Oggi Enel, dopo l'annuncio di ieri, ripeto, a sorpresa per i tempi, non per la cessione della quota prevista anche dalla legge di stabilità, meno 0,44% a 4,04 euro, mentre il peggior titolo è Jux, meno 2,13. Miglior titolo Autogrill più 3,90, Fiat più 3, Telecom più 2,90, Mediolanum più 2,80, Pop Emilia Romagna più 2,30 come Intesa San Paolo e la Popolare di Milano. Il 2,11 lo guadagna Monte dei Paschi, anche Unipolsai, 2% Unicredit e Mediobanca, ma anche Azimut, l'1,5 Tenaris, l'1,30 Ferragamo, Moncler ed ST Microelectronics. Il commento come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, oggi nella persona di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, World Duty Free, vabbè, anche qui parliamo di realizzi e va corso molto. C'era stata la dichiarazione anche della holding della famiglia Benetton che aveva detto: noi valutiamo tutte le offerte, un meno 0,58 ci sta tutta. Fronte opposto invece Autogrill, visto che parliamo sempre della stessa holding, più 3,90%. Eh sì, perché quando sono state scisse le due società, sì, sostanzialmente l'idea degli operatori, poi anche quello che hanno affermato gli artifici dell'operazione, la famiglia Benetton, era quello di poi, nel caso se ci fossero delle offerte interessanti, anche quello di valutare eventuali partnership. Quindi visto che su WDF cominciano a esserci delle manifestazioni di interesse concrete, adesso il mercato scommette anche su potenziali alleanze per Autogrill. Ancora Fiat Chrysler più 3%, Telecom più 2,90%. Allora abbiamo letto in apertura le dichiarazioni di Gaetano Miciche in merito alla quotazione delle torri Telecom. Perché gli è stato chiesto giustamente se l'offerta di Mediaset avrebbe cambiato i tempi e anche l'obiettivo della quotazione per quello che riguarda le torri Telecom Italia, e l'amministratore delegato di Banca IMI, appunto Gaetano Miciche, ha detto: no, la quotazione prevista per il primo semestre di quest'anno, l'offerta di Eight Towers di Mediaset per Rai Way, non credo possa modificare la volontà di Telecom. Telecom però si muove su questo? Beh, sicuramente il fatto che Telecom stia lavorando a questa quotazione, il fatto soprattutto che ci sia questa offerta di Eight Towers su Rai Way, non fa che galvanizzare tutti i titoli legati alle torri. Solitamente quando c'è un'operazione straordinaria che riguarda un settore, poi tutti gli altri titoli che appartengono a quel settore se ne avvantaggiano in borsa, insomma sale la febbre per le torri, quindi è logico che anche il fatto che Telecom abbia in cantiere questa operazione dia un beneficio al titolo in borsa. Ancora tra i titoli citavamo Mediolanum più 2,80, Pop Emilia Romagna più 2,40, Intesa San Paolo più 2,30 per cento. Su Enel però aggiungiamo un commento, nel senso che ieri il Tesoro ha fatto sapere che il collocamento lampo sarebbe venuto a un prezzo non inferiore ai 4 euro. Comunque direi che Enel si è comportata molto bene oggi, perché dopo una cessione così consistente, il 5% di Enel non è poca cosa, perdere solo lo 0,44% è un dato importante. Basta pensare a Mediaset, recentemente era stato venduto il 7-8%, poi in due sedute ha perso quasi l'8%. Ancora tra i titoli si diceva un po' debole Finmeccanica, ma lo 0,1%. Per quello che riguarda Rai Way non l'abbiamo data, scusami Ceo. Rai Way oggi ha perso il 2,8%, qualche realizzo insomma era logico dopo il balzo di ieri che aveva guadagnato mi pare il 9%, e comunque in attesa di quelli che sono dei CDA di oggi, che dovrebbero un attimo fare un primo punto sulla situazione. I Towers invece stabile, più 0,5%. Tra i migliori e i peggiori, visto che lì siamo, Sorin più 34%, IT Way più 21,90, Mittel più 15,40, Salini in pregiro più 10,90, Bion più 9,30, CHL più 5,90, fronte opposto Tech Value meno 5,30, KR Energy meno 4,30, Giorgio Fedon meno 4,20, come Ambro Mobiliare, Zucchi meno 4% e Mondo TV meno 3,80%. Oggi sul fronte bancario c'è, per concludere, tutte le banche positive, non ho visto grossissime notizie, oltre a Intesa e la Pop Milano, bene anche Monte dei Paschi più 2,11, Unicredit più 2, Mediobanca più 2%. No, non ci sono grandi notizie, direi che le banche sono andate bene in tutta Europa, uno dei settori che hanno meglio performato sulle borse. Milano è molto legata alle banche, infatti è una delle migliori borse europee. Tu hai citato Sorin, colgo la palla al balzo, ha guadagnato più del 30% grazie all'offerta carta contro carta dell'americana Cyberonics per un'integrazione, un'offerta comunque a premio del 14%, e il mercato, c'è da dire proprio che scommette su questa fusione. Grazie a Ciao Conni, la Radio Cori sulle 24 ore. Sì, vedo che ci chiedete Sorin è una delle principali aziende italiane nel settore biomedicale, c'è di attenzione che insomma è uno dei settori che è visto in maggior crescita nei prossimi decenni, beh, per un motivo molto semplice, insomma, che invecchia la popolazione e che invecchia anche la popolazione cinese, brasiliana, indonesiana, pure loro invecchiano, sì, vabbè, mi verrebbe una battuta cattiva, non la faccio, però. E quindi quello è un settore che avrà ampi margini di crescita non solo nei paesi occidentali e già benestanti, ma anche nelle economie emergenti. Il riferimento a cui faceva il collega di Radio Cori sulle 24 ore è la notizia per cui Sorin Group e Cyberonics sarebbero pronti a una fusione per creare una società che diventerebbe leader nelle tecnologie medicali, con una capitalizzazione, mettendo assieme i due titoli, da circa 2 miliardi e 400 milioni di euro. Poi oggi, per quello che riguarda i titoli quotati, c'è anche una notizia che ha a che fare con Atlantia, nel senso che Autostrade per l'Italia ha annunciato di aver raggiunto un accordo per rilevare l'intero controllo dell'autostrada tirrenica, di cui deteneva già il 25%. Il controvalore dell'operazione per il 74,95% dell'autostrada tirrenica è di 84 milioni di euro. E sulle banche, in realtà l'unica notizia che abbiamo visto di un certo rilievo riguarda Mediobanca, perché secondo quanto battuto dalle agenzie che citavano fonti vicine ai soci di Mediobanca, non è escluso che a settembre, quando si aprirà la finestra per disdettare il patto di sindacato di Mediobanca, cioè quel patto che tiene assieme, li obbliga a stare assieme i principali azionisti di Mediobanca, non è escluso che alcuni soci manifestino intenzione di uscire, portando di fatto allo scioglimento del patto stesso che regge Piazzetta Cuccia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso il traffico, poi l'ultima parte del programma, già vi facevo un riferimento, iniziamo un avvicinamento verso l'Expo, ma non solo sui biglietti venduti o perlomeno prevenduti, quanto su come il mondo di chi deve garantire un'infrastruttura, in primo luogo alberghiera, ha ammesso e non concesso che i milioni di visitatori attesi arrivino, si sta muovendo. I rischi sono, lo dico subito così ci leviamo il sasso, di un mondo degli albergatori che di fatto vada a utilizzare l'Expo come mordi e fuggi, come selvaggina da passo, come avviene per altre grandi manifestazioni con prezzi che raddoppiano, triplicano e quant'altro. Ora, ognuno può fare i prezzi che vuole, per carità, libero mercato, però ci deve essere anche un modo ragionevole di accogliere i turisti per l'Expo, onde evitare poi l'effetto boomerang e le solite accuse. durante l'ultimo salone del mobile, aprile 2014, una camera doppia a Milano costava in media 337 euro. Si arrivava a picchi di 441 euro, ma al di là dei picchi, il rincaro in media è stato del 142%. Andamento analogo, per così dire, durante la settimana della moda. Mi stanno già scrivendo gli ascoltatori, visto che è in corso, nello stesso hotel dove pago 110, ho pagato ieri sera 250 euro. Ma il tema c'è tutto in vista dell'Expo, perché, per carità, uno può anche capire che la settimana della moda o del mobile, mi chiedo scusa per la gola, possa essere un'occasione così da prendere al balzo, anche se non è mai bellissimo vedere che lo stesso hotel a parità di servizi ti dà quella, ti spara quelle cifre in quel periodo. Però questo rischia di avere un effetto deleterio sull'Expo qualora dovessero iniziare a uscire gli articoli di stampa e di comunicazione sul tema del prezzo delle camere. Proprio oggi se ne è parlato e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci. Buonasera. Buonasera a lei, radioascoltatori. Lei sta assistendo alla mia morte in diretta, però allora, per quello che riguarda, perché purtroppo l'influenza colpisce anche chi conduce, dicevo, oggi avete presentato una ricerca per quello che riguarda turismo e recettività alberghiera alla vigilia dell'Expo. Lei può iniziare a dirci che i suoi associati si sono impegnati o che state cercando di avere un protocollo in modo che gli aumenti tariffari vanno bene? Io capisco l'alta stagione, chiamiamola alta stagione, però non uscire da queste categorie. Ma guardi, io ho ascoltato quello che ha detto e sinceramente noi questa cosa, soprattutto per il periodo dell'Expo, non la vediamo. Lei ha preso ad esempio il periodo estremamente limitato di 3-4 giorni per quanto riguarda la fiera del mobile, in cui è il problema dell'incontro tra la domanda e l'offerta. Quando la domanda è assai superiore rispetto a quella che è l'offerta, succede che i prezzi salgano in maniera così esponenziale. Però faccia conto che noi abbiamo un osservatorio mensile su quello che è l'andamento nelle principali città, e quindi anche per quanto riguarda Milano, l'andamento sia del ricavo medio a presenza e quindi sia del prezzo che viene applicato, e fondamentalmente anche negli ultimi 3-4 mesi c'è stato anzi un calo, per cui non c'è proprio un'evidenza di incrementi di tariffe, perché comunque la domanda è sempre quella che è. Per quanto riguarda poi in particolare il discorso di Expo, consideriamo che Expo durerà 6 mesi, per cui in 6 mesi, cioè, non riteniamo, a parte che non vediamo in questo momento, non vediamo neanche questa grande domanda, mi spiace dirlo, ma in questo momento proprio questa grande domanda non c'è, perché tra l'altro ci si aspetta questa presenza forte di visitatori in Expo, ma che sono soprattutto visitatori locali. Poi questi 20 milioni, qui 6 milioni che vengono dall'estero, al momento noi questa grande pressione sulla domanda non la vediamo. Non la vedete, no. No, allora qui bisogna intendersi sulle cifre, perché poi avremo anche, più ci avviciniamo all'Expo, più avremo approfondimenti specifici. Allora, i 7 milioni e mezzo di biglietti che vanta sono in realtà stati venduti, lo dico, non c'entra di male, funziona così, ai tour operator, da quello, certo, che so io, cioè gli, 3 milioni 200 mila notti vendute ai tour operator che lavorano all'estero sono appunto vendute ai tour operator. Poi i tour operator dovranno a loro volta vendere alla clientela, se no restano inoptati. Per cui, tra l'altro, mi fanno notare gli ascoltatori, presidente, che devono stare attenti gli associati suoi e in generale gli albergatori, perché si sta sviluppando online soprattutto anche un'offerta dei cosiddetti bed and breakfast on air, cioè quelli che vengono, si propongono per affittare la camera, per dormire, anche privati cittadini, tramite la rete. Per cui se i prezzi iniziano a salire un po' troppo, giustamente uno può dire, beh, mi prendo un bed and breakfast, prendo un affittacamere, come si chiamavano una volta. Certo, beh, è chiaro che noi ci rendiamo conto e siamo consapevoli del fatto che in Italia in generale, come all'estero, sta aumentando sempre di più questa recettività alternativa. Recettività alternativa la quale noi albergatori non siamo contrari per principio, noi riteniamo semplicemente che questa ricettività alternativa abbia comunque un minimo di regolamentazione che al momento non esiste, cioè praticamente in Italia non ci sono delle regole chiare e non ci sono degli adempimenti. Cos'è la vostra Uber? Riguarda... Scusi? È la vostra Uber? Beh, ma diciamo che sicuramente lei consideri che tutte le gli adempimenti burocratici che, ai quali sono sottoposti gli alberghi, questo tipo di offerta e questo tipo di recettività non ce l'ha. E non parliamo, e non sto parlando degli aspetti strettamente fiscali sul fatto che, che molto spesso questa recettività alternativa, insomma, non paga le tasse. Ecco, e questo per quello che riguarda, diciamo, il fatto che tutti abbiano le stesse regole di gioco, e su questo noi siamo d'accordissimo. Esiste, mi chiedono gli ascoltatori, in realtà la possibilità di mettere un tetto alle oscillazioni di prezzo? Ah, vede, chiedo, siamo, non lo so. No, io ritengo che in generale in un paese come il nostro, nel quale c'è la libera concorrenza, l'incontro della domanda d'offerta porta a quelli che sono dei picchi, ma che, ripeto, non possono essere dei picchi su dei periodi così lunghi come quello di un Expo. Cioè in 6 mesi è assolutamente considerare che ci sia un incremento previsto e che si debba addirittura arrivare a dover definire dei tetti. Mi sembra assolutamente, ma neanche a me fa impazzire. Io non so oggi cosa succede con gli ascoltatori. Uno mi scrive: ma perché dov'è dice che vogliamo usare questa storia dei prezzi degli alberghi per segare l'Expo. Abbiamo appena detto con il ministro Martina che tutto il paese, nord, centro, sud, da destra a sinistra, deve tifare perché l'Expo riesca. Faremo viaggi di avvicinamento, l'abbiamo già fatto all'Expo, noi tifiamo perché l'Expo riesca. Dopodiché, facendo i giornalisti, cerchiamo di capire anche cosa si sta muovendo. Le segnalo, Presidente, che molti ascoltatori scrivono invece che anche in altre città all'estero, quando ci sono fiere importanti, Francoforte, Monaco, è prassi che i prezzi decollino, e tutto il mondo è paese e molti la stanno subendo, quindi è giusto anche ricordare che non è che siamo solo noi italiani che aumentiamo i prezzi degli alberghi. L'equilibrio che non può essere, io sono d'accordo con lei, deciso per legge, però è tra un aumento per la stagione alta, chiamiamola così, come l'Expo può rappresentare, e però un minimo di decenza, ecco, perché se tu a parità di servizi triplichi il prezzo non c'è altra stagione che tenga su questo, Presidente. Ma guardi, su questo concordo pienamente con lei, e concordo anche con lei e con quello che diceva il ministro Martina, cioè che noi italiani dobbiamo assolutamente credere in Expo. E la cosa che è stata interessante, ci tenevo a dirla, perché abbiamo presentato questo studio che abbiamo presentato proprio oggi in occasione della nostra assemblea, è estremamente interessante, sì, perché è stato fatto su una è veramente una ricerca fatta su 800 liberi cittadini, quindi non opinion leader, non esperti del settore, ai quali è stato chiesto non soltanto quello che pensavano della ricettività italiana e quello che pensavano dell'importanza del turismo nell'economia del nostro paese, sì, ma per quanto riguarda Expo in particolare, la cosa che è estremamente interessante è il fatto che il 65% si dichiarano che il nostro paese e che Milano è pronta per ricevere, è pronta per Expo, ed è pronta, e questa ci ha abbastanza, anche se vuole stupito, ma ci ha fatto veramente piacere. Beh, ma un po' di vaghissimo ottimismo si respira su questo Expo, piano col fagiano, perché adesso vedremo come andranno le cose, ma era giusto partire anche da qui. Parleremo anche dei tassisti, nel ringraziare il Presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci, dico ai tassisti, parleremo anche dei tassisti, sono incavolatissimi per la corsia che deve portarli all'Expo, che rischia di intasarsi perché i taxi rischiano di essere pochi, perché scaricheranno a 400, mi sembra 500 metri di distanza. Parleremo di tutte le cose che potrebbero non funzionare, in modo da non dire non l'avevate detto. Chiudiamo con chi mi scrive: io, lei paga tanto di alberghi perché soggiorna in suite e svaligia il minibar a spese del Sole 24 Ore. Anche qui l'errore è nella parte finale. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.